Da un certo punto di vista non ha senso parlare della memoria di Dio, cioè che possa ricordare o dimenticare, perché se crediamo che Egli sia eterno, onnisciente, è evidente che Dio non è condizionato come noi dalla necessità di richiamare alla memoria eventi o parole, perché tutto gli è presente. Eppure è più che mai indispensabile per noi creature umane avere a che fare con una divinità che abbia caratteristiche umane, e questo per almeno due motivi. Innanzitutto, secondo la parola di Dio, perché noi siamo stati creati a sua immagine e somiglianza, perciò le caratteristiche che abbiamo devono per forza di cose essere simili al nostro creatore. Inoltre, è più che mai opportuno che noi creature limitate abbiamo a che fare con una divinità con caratteristiche umane. Diversamente avremmo a che fare con una divinità incomprensibile, o meglio con qualcuno o qualcosa, per noi enigmatico e con il quale non è possibile relazionarsi. Chi di noi è in grado di avere un rapporto alla pari con una formica o un pipistrello? Ma se questi avessero caratteristiche umane, se potessero parlare e ricordare come noi esseri umani, allora nulla ci impedirebbe di avere con loro un certo tipo di relazione. Così è di Dio. È vero che la divinità dei cristiani è trascendente, ma dobbiamo stare attenti a cosa intendiamo con il termine trascendente. Se intendiamo che la divinità è assoluta, perfetta, onnipresente, onnisciente, è vero. Ma se con il termine trascendente intendiamo che Dio è al di là di ogni conoscenza ed esperienza, allora questo termine non si può applicare al Dio dei cristiani. Il Dio della parola si è rivelato all'uomo, ha avuto ed ha tuttora una relazione personale con la sua creatura, e per forza di cose usa il linguaggio tipico degli esseri umani. Per questo motivo, la divinità dei cristiani vede, sente, parla. Interviene con il suo braccio. Ha compassione, è misericordioso e infine ricorda e dimentica. Se accettiamo che Dio possa sentire, vedere, parlare, non vi è nulla di strano se Egli può anche dimenticare e ricordare. Tutte queste azioni fanno parte del lato umano di Dio, perché se Dio, che è trascendente, non è anche umano, allora noi che crediamo in Lui, in chi abbiamo creduto? Abbiamo posto fede in un UFO, cioè in un oggetto non identificabile, o nel creatore che ci ha creati a sua immagine e somiglianza con caratteristiche umane. Per coloro che hanno posto fede in lui, la memoria di Dio dovrebbe costituire oggetto di adorazione e di ringraziamento più di quanto generalmente non è. E perché questo avvenga, iniziamo a prendere in considerazione alcune affermazioni della parola di Dio. Quanto è magnifico il tuo nome su tutta la terra. O eterno Signor nostro che hai posto la tua maestà al di sopra dei cieli. Dalla bocca dei bambini e dei lattanti tu hai stabilito la lode a motivo dei tuoi nemici, per far tacere il nemico e il vendicatore. Quando considero i tuoi cieli, e che sono opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai disposte, che cosa è l'uomo, perché te ne ricordi, e il figlio dell'uomo, perché lo visiti? Eppure tu lo hai fatto di poco inferiore a Dio e lo hai coronato di gloria e di onore. Lo hai fatto regnare sulle opere delle tue mani e hai posto ogni cosa sotto i suoi piedi. Pecore e buoi tutti quanti, e anche le fiere della campagna, gli uccelli del cielo e i pesci del mare. Tutto quello che passa per i sentieri del mare. O eterno Signor nostro, quanto è magnifico il tuo nome in tutta la terra. Salmo 8. Il salmista ha espresso lo stupore e adorazione considerando l'atteggiamento di Dio nei confronti della sua creatura umana. Dio ha creato dei cieli immensi. Ha creato una terra con milioni di creature e un ecosistema perfetto. Ponendo tutto questo a confronto con l'uomo, che valore ha questa creatura perché egli non solo l'abbia creata, ma ogni giorno se ne curi e si ricordi di lei? In genere noi tutti siamo pronti di fronte ad un impegno utile e vantaggioso. Ma chi è fedele da ricordarsi sempre della parola data? Nel suo amore Dio ha creato l'uomo, ma la grandezza del suo amore sta nel fatto che egli non si dimentica di occuparsi di lui. Sì, non vi è evento nella vita di un essere umano che sfugga a Dio. Per comprendere come Dio si ricordi di noi, spesso dobbiamo guardare indietro al nostro passato, ricordare eventi incredibili, piacevoli e spiacevoli, quando pensavamo di essere soli, per poi scoprire con felicità estrema che la mano di Dio ci conduceva amorevolmente. Tramite il profeta Isaia Dio dice: «Può una donna dimenticare il bambino lattante e non aver compassione del figlio delle sue viscere? Anche se esse dovessero dimenticare, io non ti dimenticherò». Isaia 49:15. Credere a questa promessa significa vivere un'esistenza senza angoscia, significa vivere con la consapevolezza di non essere soli e, soprattutto, di non essere dimenticati. Per far comprendere quanto Egli abbia presente la nostra persona, Dio prende l'immagine di una mamma che ha avuto un figlio. Potrà una mamma dimenticare di aver concepito e partorito un figlio? No, ma se anche fosse possibile, per nessun motivo Dio dimenticherà di averci creati. Ma vi è un altro aspetto della memoria di Dio che dovrebbe portarci all'adorazione. Lo esprime bene ancora una volta il salmista. Benedici, anima mia, l'Eterno, e tutto quello che è in me, benedica il suo santo nome. Benedici, anima mia, l'Eterno, e non dimenticare alcuno dei suoi benefici. Egli perdona tutte le tue iniquità e guarisce tutte le tue infermità. Egli non ci tratta come meritano i nostri peccati e non ci castiga in base alle nostre colpe. Poiché quanto sono alti i cieli al di sopra della terra, tanto è grande la sua benignità verso quelli che lo temono. Quanto è lontano il levante dal ponente, tanto ha egli allontanato da noi le nostre colpe. Come un padre è pietoso verso i suoi figli, così è pietoso l'Eterno verso quelli che lo temono. Perché egli conosce la nostra natura e si ricorda che siamo polvere. Salmo 103:1-13:1-4. Il nostro rapporto con Dio non può essere alla pari, perché Lui è tre volte santo, mentre noi siamo mancanti in ogni momento. Per questo noi abbiamo bisogno costantemente della sua misericordia e della sua compassione. Com'è possibile ottenere questo? Il salmista è spesso la formula che permette a Dio di usare sempre l'atteggiamento giusto nei nostri confronti. Si ricorda che siamo polvere. Proprio perché Dio ricorda del continuo la nostra fragilità, la nostra umanità, i nostri limiti, Egli è pietoso, non ci tratta come meritiamo, e guarisce ogni forma di infermità. Come sono preziose queste verità! Pensiamo un attimo a cosa accadrebbe se le cose fossero al contrario, e cioè se Dio si ricordasse dei nostri peccati e dimenticasse che siamo fragili fatti di polvere. Chi ha detto che Dio debba per forza ricordarsi della nostra fragilità e dimenticare i nostri errori? Egli avrebbe potuto benissimo avere questo atteggiamento nei nostri confronti, e nessuno di noi avrebbe potuto replicare. Eppure, nella sua grande misericordia, nel suo immenso amore, Dio ha deciso per il nostro bene di dimenticare le nostre disubbidienze e ricordarsi ogni istante quanto siamo miseri. E non solo. Dopo la venuta di Cristo sulla terra, Dio ha riconciliato il mondo con sé in Cristo, non imputando agli uomini i loro falli. In questo momento, per quanto ogni essere umano sia colpevole, spregevole, macchiato di peccato, Dio non lo ritiene responsabile né peccatore, perché con il sacrificio di Cristo egli è riconciliato a Dio. Riconciliato, questo ha fatto Dio con la sua memoria. Grande Dio! Che Dio sia in grado di dimenticare e di ricordare è una ragione di gioia e di adorazione per il credente. Ma per l'incredulo la situazione è tutt'altra che rosea. Mentre Dio, per amore del proprio nome, ha deciso di dimenticare ogni trasgressione commessa nei suoi confronti da chi pone fede in Lui, Isaia 43:25-26, non potrà dimenticare le trasgressioni di chi rifiuta di porre fede in Cristo, quale Salvatore. Questa differenza di atteggiamenti nei confronti del peccatore non scaturisce propriamente da un suo atto di volontà, ma dall'impossibilità di agire diversamente. Mentre chi ha creduto al sacrificio sostitutorio di Cristo ha cancellato i peccati, l'incredulo mantiene tutte le sue colpe, non avendo altro mezzo sotto il cielo per togliere i suoi misfatti. E così, quando verrà il giorno del giudizio, giorno tra l'altro già anticipato profeticamente, egli non potrà discolparsi di nulla e riceverà la piena condanna dei suoi errori. Ma poiché fino ad ora abbiamo considerato la deità con elementi umani, sempre per rimanere in tema, qualcuno penserà allora che sia possibile a Dio dimenticare qualcosa. L'obiezione è più che giusta. Proprio per evitare questa possibilità, proprio perché qualcuno poteva presentare tale obiezione, l'Eterno Dio, come ogni persona seria, ha preso delle precauzioni. Ecco cosa leggiamo nel libro dell'Apocalisse. Poi vidi un gran trono bianco, e colui che vi sedeva sopra, dalla cui presenza fuggirono il cielo e la terra, e non fu più trovato posto per loro. E vidi i morti, grandi e piccoli, che stavano ritti davanti a Dio, e i libri furono aperti, e fu aperto un altro libro, che è il libro della vita, e i morti furono giudicati in base alle cose scritte nei libri secondo le loro opere. E il mare restituì i morti che erano in esso, la morte e l'Ades. Restituirono i morti che erano in loro, ed essi furono giudicati ciascuno secondo le sue opere. Apocalisse 209:11-13. Non tutti sanno che dalla creazione in poi l'Eterno Dio possiede dei libri e che tutto ciò che si fa e si dice viene registrato. Nessuno verrà giudicato su opinioni o supposizioni, ma sulla base di ciò che è stato annotato. Così, mentre l'Eterno Dio mediante i libri non dimentica il bene che compiono i suoi figli, Ebrei 6:10, mentre ogni lacrima giusta di coloro che ha riscattati viene registrata, Salmo 56:8, così di ogni parola oziosa, cioè ogni rivelazione della quale non è stato tenuta conto e non portata a frutto, gli uomini ne dovranno rendere conto. Matteo 5:36. Di fronte a questa prospettiva tremendamente tragica per l'incredulo, vi è invece per un figlio di Dio un'altra promessa fatta dal profeta Isaia circa 3000 anni fa. Poiché ecco, io creo nuovi cieli e nuova terra, e le cose di prima non si ricorderanno più e non verranno più in mente. Isaia 65:17. Non solo Dio dimentica, ma nei nuovi cieli e nuova terra, anche chi lo teme dimenticherà ogni cosa negativa del passato. Anche questo farà parte delle sorprese che Dio ha riservato a chi lo ama. Maggio 2005. Ellero.